Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il marzo del 1821. Una buona giornata, edizione speciale di questo Gazzettino del Risorgimento per raccontarvi degli eventi che stanno prendendo corpo in tutta Europa. La rivolta napoletana è stata sedata, mentre è sempre più complessa la situazione in Piemonte, dove il re ha abdicato, ma non è chiaro chi abbia in mano le redini. Gli aggiornamenti in diretta dall'inviato a Torino, Paolo Piacenza. Paolo. Buongiorno Simone, mi trovo a Torino di fronte a Palazzo Carignano perché qui in questo palazzo di proprietà del ramo cadetto dei Savoia che si sono svolte le fasi cruciali di una vicenda che siamo riusciti a ricostruire almeno in parte. Come sapete qui a Torino è scoppiata la rivoluzione e come a Napoli protagonista è stato l'esercito, ma pure, ed è qui la peculiarità, un principe della casa regnante. Da un anno un gruppo di nobili cappeggiato da Santorre Annibale de Rossi, signore di Santa Rosa, si incontrava segretamente con due obiettivi, la Costituzione e la guerra all'Austria. I cospiratori hanno trovato un interlocutore nell'erede al trono di Sardegna, il principe Carlo Alberto di Savoia Carignano. Il principe, si sa, è un po' isolato a corte, non ama gli austriaci e guarda invece con favore verso lo zar Alessandro. Già in gennaio, durante i tumulti all'università, Carlo Alberto aveva mostrato il suo sostegno ai giovani feriti dall'intervento dei militari sabaudi. Il 6 di questo mese di marzo, in serata, ha ricevuto nella sua biblioteca a Palazzo Carignano i capi della rivolta: Santorre di Santa Rosa, Giacinto Provana di Collegno, Carlo di San Marzano, il conte Guglielmo Moffa di Lisio, insieme al marchese Roberto d'Azeglio. I cospiratori gli hanno detto che tutto era pronto e si attendeva solo il suo sì. Carlo Alberto deve aver detto solo un mezzo sì, perché qui le versioni divergono. Santorre parla di un via libera agli amici del principe, di un invito alla prudenza. Fatto sta che il giorno dopo il principe ha ritrattato, poi quando ha capito che la macchina era partita ha dato un nuovo ok. Il 10 si è sollevata la guarnigione di Alessandria, che ha issato il tricolore nel nome della Costituzione e della guerra all'Austria, poi le altre guarnigioni. Il 13, di fronte alla folla di Torino che chiedeva la Costituzione, il re Vittorio Emanuele I ha preferito abdicare in favore però del fratello Carlo Felice, che era ed è a Modena. La reggenza è stata affidata a Carlo Alberto, che ha assunto l'incarico, ha nominato Santorre di Santa Rosa ministro della guerra di una giunta provvisoria e ha concesso la Costituzione. Sentiamo un passo del decreto. Il nostro rispetto e la nostra sommissione a Sua Maestà Carlo Felice ci avrebbero consigliati dall'astenerci ad apportare qualunque cambiamento alle leggi fondamentali del regno, o ci avrebbero indotto a temporeggiare per conoscere le intenzioni del nuovo sovrano. Ma l'impero delle circostanze è chiaro e ci preme altamente di rendere al nuovo re il suo popolo salvo, incolume, felice e non straziato dalle fazioni e dalla guerra civile. Perciò, ponderata ogni cosa e avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo deliberato che la Costituzione di Spagna sarà promulgata e osservata come legge dello Stato, nella fiducia che Sua Maestà il re, mosso dalle stesse considerazioni, sarà per rivestire questa deliberazione della sua sovrana approvazione. Tuttavia, a quanto si è saputo, Carlo Felice da Modena non ha affatto gradito. La situazione al momento è incerta, anche perché la giunta ha di fatto dichiarato guerra all'Austria. Pare che Carlo Felice abbia ordinato a Carlo Alberto di lasciare subito Torino. Per ora è tutto. Intanto, come si diceva, prima sconfitta per i ribelli napoletani guidati da Guglielmo Pepe, il suo esercito ha subito una disfatta da quello austriaco nel Reatino, nella zona delle Gole di Antrodoco. Adesso le truppe di Vienna stanno marciando su Napoli. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, visitate la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penne e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.